Antò! Chi è che chi parla? David Parenzo! Oh, ciao, ciao David, come ma stai? Ma rimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi. Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, ma quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, no, mi sto per te, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come mi sto vestito, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Allora fateli cazzi tua, no, vaffanculo. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Però io avverto, vi colpirò forte politicamente, vi farò male. Ve lo dico proprio, vi farò molto male, ma non lo farò adesso. Perché non sono vigliacco come voi, infame come voi, perché non lo farò adesso per colpirvi politicamente, perché io politicamente vi colpisco con i fatti, col lavoro, con il sorriso, con quello che stiamo facendo. Dopo il 26 io inizierò e vi faremo un culo così. Questo è un linguaggio istituzionale. Vi faremo un mazzo così, io ho un pelo che neanche un cinghiale ha un pelo del genere. Non mi fate paura, non mi intimidete. E vi faremo un culo così. Fratello, perché non sono vigliacco come voi, come voi. Infame come voi, come voi. Donato! Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Sono Max da Prato, auguri Cruciani e auguri a quel coglione e Finocchio si vede in faccia, chiaro chiaro, di Palenzo. Finocchio si vede in faccia, Posso risolvere il problema dell'immigrazione in due battute? Quante migliaia di persone sono morte affogate nel Mediterraneo? Svariate. Affondi le prime due navi, muoiono, non parte più nessuno, hai salvato migliaia e migliaia di persone. Tu ammazzi 200 persone, ne salvi 5.000, sei una persona che ha fatto del bene, perché non parte più nessuno, tu le affondi. Non parte più nessuno, li hai salvati, stanno in Niger e salvano il Niger invece di venire a spaccare il calcio qua a noi, no? Sei un imbecille! Sei un imbecille! Cruciani, io mi sono incazzato che tutti quanti avete attaccato Salvini di quello che ha fatto. Da come dice quel celebro leso dell'amico tuo lì, Parenzo, non si va a rompere le scatole a casa di uno spacciatore, tanto noi gli paghiamo la casa. Poi lo facciamo spacciare in una casa comunale, Cruciani, le foglie senza vento non si muovono. Le foglie senza vento non si muovono. A casa mia non c'è mai venuto nessuno. A casa tua ma non viene nessuno in generale, perché sei una persona sola. Ma stai zitto, Leso, stai zitto. A casa tua, in generale, tua, non sono già sei. A casa, sono tu a casa mia. Sei un cerebro leso. Tutta l'Italia ti odia, Parenzo, ti odia tutta l'Italia. Dì che sono quattro froci questi. Siete quattro froci? Eccoli, ma venite a trovarla sta ragazza, ma no? Venite a trovarmi, no? Che grappolo dei froci. Se potete chiamare i carabinieri? Sì. Come no? C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? David, una semplice domanda, molto semplice. Secondo te questa trasmissione andrebbe chiusa? Secondo te? Una semplice domanda, così, con una risposta secca. Andava già chiusa, e come dire, in pochi minuti non riesco a contare la quantità di reati che si sono commessi, di diffamazione, eccetera. È voglio una risposta secca. Secondo te questa, questa emissione radiofonica andrebbe chiusa, sì o no? Questo chiusa, ti voglio chiedere. Immediatamente, fossi la procura anche, che farei un'istanza, cioè interveresti subito, fossi uno, un procuratore della Repubblica. Ma la cosa che più mi inquieta, come sai, non sono le persone che ascoltano, perché quelli che ascoltano sono una, la grande massa, sono quelli che chiamano. Perché quelli che chiamano hanno un tasso di deficienza, no, nel senso latino, cioè di mancanza. Così, non ti puoi attirare ancora una volta. No, ma anche tu sarai d'accordo con me. Di normale, diciamo, su 30 telefonate, normali sono in due. Ma normali, ma anche persone magari. Ma non puoi dire una cosa del genere. No, ma lo riconosci anche tu, credo. Assolutamente sono persone. Guarda, ti posso dire una cosa: per me il demone scimmia è normalissimo. Per me il demone scimmia è normalissimo. Cioè, non ce n'è uno di quelli che chiamano, ce n'è uno di normale. No. Posso salvarne 5 o 6 a settimana, ma il grosso è fatto da poveri deficienti esibizionisti che legittimamente a quest'ora chiamano e dicono la qualunque. Ma insomma, va benissimo, evviva. Esistono, vivono, lottano con noi, sono nostri concittadini. E domenica voteranno come noi. Questo per noi è normale. Vedi come questa qua? No, è normale. Questi qui votano domenica, ma è giusto che ragazzi, sia così. Ragazzi, siamo al D-Day, vicini siamo al D-Day. Per fortuna, cosa siamo succederà a domenica? Cosa accadrà nelle urne lunedì? Forse ci sarà una rivoluzione, forse no. Magari il governo cade. Noi vogliamo solo il caos. Qui. No, no, tu non vuoi il caos, io non voglio caos per niente. Vogliamo il caos, il casino. Vogliamo i ricchi, il casino. I ricchi se ne fregano come te, quindi dicono caos. Ah, figuriamoci, i soldi. Chi invece ha più difficoltà non vuole il caos, vuole il governo. Intanto Berlusconi ormai è impazzito completamente. Impazzito no, cioè nel senso ne dice di tutti i colori. Senti che cosa ha detto, senti. Voi dovrete anche fare dei paragoni con gli altri leader in campo. Cioè? Tutti gli altri leader italiani. Allora? Ma che razza di leader sono? Ma di chi parli? Non lo so. Senti. Parla che di Salvini forse, è non probabile, so. Sì, senti. Oltretutto, il vecchio Berlusca è anche uno dei più capaci imprenditori italiani. Il vecchio Berlusca, parla di se stesso, senti. Non parliamo di donne perché li batto tutti. Beh, amico mio, Feltri sostiene che nella redazione di Libero hanno rubato il sedile dei cessi nei bagni. Ma figurati, ma ha detto questo. Ma figa, è l'unica roba di cui si occupa ormai. Ha detto che nella redazione di Libero hanno rubato il sedile. Sai il sedile cosa? I colleghi giornalisti. Che ambiente è? Ma domandiamoci, ma che ambiente è quello di Libero? Ma che ambiente è? Ma questa è un'ulteriore fonte di prova dell'ambiente che è Libero, dove si fottono pure le tazze del bagno. Ma che ambiente è Libero? Che roba è? Lo denuncia il suo stesso direttore. Tu dici che Senaldi o ma qualcuno dai, si sono fottuti adesso la tavoletta per portarsela a casa. Io, come sai, mi scontro con Senaldi spesso, non riesco ad immaginare. Mentre Borgonovo che va via con un pezzo di cesso, lo posso anche immaginare. Potrei immaginare lui che svita Borgonovo, no? Sai Borgonovo, però è la verità Borgonuif. Sì, esatto. Come si dice in francese Borgonovo? Borgonef, scusami. Borgonef, chiamiamolo Borgonef, così lo nobilitiamo. Borgonef, mettelo, immagino che svita la tavoletta. No, Borgonuvo. Ma tu hai fatto francese, Borgo no Nouveau, io Borgo Nef Borg Nouveau è 9 in realtà. Ecco, Borgo Nouveau. Chiamiamolo Borg Nouveau. Come è Beautiful Stone, no? Vabbè, Maurizio allora, Belpietro è Beautiful allora, Stone. Allora? No? È Beautiful Picture. Cioè, tu lo vedresti che lo vedo. Mentre ce lo vedo lui che svita lì col cacciavite, no? Notte tempo la tazza del cesso, la tazza del cesso e anche la carta igienica, ma soprattutto la tazza ce lo vedo che lo svita. Senaldi è difficile immaginare che in mezzo alla mazzetta di giornali si mette esatto, in mezzo. No, questo di Senaldi non lo posso dire. Oggettivamente non lo posso dire. Io vorrei dire che anche nel mio giornale, che è a Milano e che è frequentato prevalentemente da gente nordica, è successo un fatto straordinario, e cioè sono riusciti a rubare il sedile del cesso dai nostri bagni. Ecco. campo. Io non so se, se la cosa vi sembra normale. No, non è normale. A Milano, e in quale città, anzi, e in quale redazione si fottono la tavoletta del cesso? Sapevo che se ne a Repubblica, impazzito. Al Corriere della Sera? E in quale redazione si fottono i pezzi del cesso? A Repubblica, al Corriere della Sera, alla Stampa? No! A Libero, diretto da Vittorio Feltri. Ma per me la trasmissione oggi si può chiudere qua. Per me puoi chiudere la trasmissione, perché il direttore di Libero che denuncia che al suo giornale si fottono i pezzi del cesso, per me, vostro onore, non ho altro da aggiungere. Vostro onore, non ho altro da dire. Vado via, vado a casa prima, perché ogni parola che io aggiungo è oltre, non ha senso. A Libero si fottono i pezzi del cesso, come dichiara il suo stesso direttore. Fatevi delle domande. Al Corriere, alla Repubblica, alla Stampa? No, a Libero si fottono i pezzi del cesso. Senti questo. Mamma mia. Ci siamo incavolati parecchio e poi ci siamo soprattutto stupiti. Ma che voglia può venire a un individuo normale di rubare il sedile del cesso? Cioè, mi sembra una cosa veramente incredibile, ed è per quello che la racconto, ma purtroppo è successa anche abbastanza recentemente, quindi siamo tutti stupiti, ma non abbiamo identificato l'autore di questo singolare furto. Sarà stato evidentemente un negro che mi ha rubato la tavoletta del no, caro direttore, no. Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. E poi avremo un sacco di ospiti, avremo Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri. Oh, per fortuna sta campagna elettorale è finita, che non ce la facevo più. Oh, volevo dire al signor Salvini che quest'anno si vota in Toscana, io abito in Toscana. Se viene a suonare al mio campanello e mi chiede se spaccio, lo mando a cagare, capito? Croce Alenzo. Ciao Cruciani, ieri sera ti ho visto da Del Debbio. Allora? Hai sempre quell'espressione così lasciva, anche se parli di politica, guarda, mi sono eccitata in un modo che a un certo punto leccavo il televisore pensando di baciarti. È tornata la MILF. È tornata la MILF. Silenzio la vecchia! No dai ragazzi. Comunque Feltri contro Salvini, eh? Feltri contro Salvini sui campanelli, senti. Senti. No, il campanello per dire che cosa, per fare che cosa? Non hai né l'autorità né i mezzi per arrestare o per perseguire. Mi sembra che in questo caso abbia ecceduto, sì. E io gli consiglierei di lasciar perdere i citofoni e di dedicarsi a qualcos'altro. Beh, direttore, sempre tanto. Direttore. Beh, ogni no, ma che vuol dire ogni tanto? Ogni tanto. Non è che uno può dire sempre delle follie, ogni tanto c'è una cosa, una ragionevole, una all'anno. Posso dirti una cosa? Una normale, se si è scandalizzato pure lui, ma tu pensa a te, se si è scandalizzato pure il direttore a cui rubano pure i pezzi del cesso, perché per me oggi questa è la locuzione con la quale... la notizia principale per te è questa. Non c'è Libero, volevo commentare con te l'ultimo libro della professoressa Nadia Urbinati. Populismo, eccetera. Vabbè. Volevo commentare con te altre notizie. Sì, però per me è tutto passato in cavalleria, passato in secondo piano, perché per me l'unica notizia degna di essere discussa e approfondita è che alla redazione di Libero si fregano i pezzi del cesso. Questo è il tema. Questo qui al Corriere. E non dei negri. No, poi fate quello che volete. Bologna va bene. Dici, non sono i negri ad aver rubato i pezzi del cesso. No, alla redazione di Libero si fregano i pezzi del cesso. Allora, cioè, tu ti rendi conto di che cosa stiamo... ti rendi conto della enormità di questa notizia? Della enormità. E posso dirti un'altra cosa? Rispetto a questi, i morti in Cina, di cui oggettivamente, diciamo la verità, no, a noi, ma quella è una tragedia, no, a pazzesca, noi dei morti, perché... Sì, ma dimmi la verità, devi essere onesto con te stesso, almeno una volta, sii onesto, ti prego, sii onesto. Di fronte ai morti in Cina, una tragedia non te ne frega quella. Un cazzo, no, no, te ne frega solo come? Della trasmissione mondiale. Sì, di questo, ma te ne frega. Scherzando. Ma di quelli, no, che anche come quelle persone che vivono in promiscuità crepano in Cina, non, beh, te ne fotte un cazzo. È una roba che fa impressione, ma non invece. Te ne frega niente. E invece fa proprio impressione, che come birilli uno... cadono in Cina. No, dai, no, no, su. Fa impressione perché sono miliardi di persone. La cosa che fa impressione è esattamente questa. No, non te ne frega nulla dei morti cinesi a te. Non dire stupidaggini. Non te ne frega un cazzo. Mi spaventa molto il fatto che nel 2020. Vabbè, ma, anche, ma per loro e per noi, ma mi spaventa molto che nel 2020 ancora un paese come la Cina possa avere delle epidemie terribili come questa del 2020. Sì, non dei morti cinesi, non te ne frega un cazzo, non te ne frega dire, ma certo che mi frega, muoiono migliaia di persone, certo, non è che uno rimane indifferenti, mica sono tutti degli stronzi come te che non gliene frega niente a nessuno. Parte delle persone di migliaia di morti cinesi non frega un cazzo. Ma che vuol dire? Ma non è vero, ma mica sono tutti persone così. Non ce ne rendiamo conto, sono lontani, che ce ne frega. Voglio vedere quando sono lontani, epidemia come quella, appunto, questo sì, ma tutto. Comunque, in generale non è quella cosa slegata dall'altra, l'hai vista quella immagine con quella che mangia la carne di pipistrello? Sì, è una cosa terribile, La carne di pipistrello, l'hai vista quella che se la mangiava? Mi fa ribrezzo. Ma l'hai vista quella immagine con quella? Pare che sia iniziato tutto da non da quella, no, in particolare, ma dalla è carne la di promiscuità dei mercati però, cinesi. Sì, giù un attimo queste cazzate che non ce ne frega niente. Allora, posso dirti una cosa? Io ho mangiato una volta la carne di pipistrello in un posto in Madagascar, ma tanti anni fa. Che schifo. In un ristorante che si chiama Panda, mi ricordo, il 93, era il 93. Da quello si diffonde l'epidemia, proprio da quella promiscuità. Ti posso dire, una carne deliziosa era, una carne buonissima. Tra l'altro ti dicono di succhiare le ali. Magari non mi ricordo nemmeno se sapevo che era carne di pipistrello. Comunque succede nel 93 in Madagascar, dove ero andato, di mangiare la carne di pipistrello in Madagascar. Vai a vedere. Vai a vedere. Fa schifo. Fanno anche il sauté. Il sauté di pipistrello. Mi il sauté. Lo farei più, naturalmente. Qui c'è un tecnico audio tra i nostri che sostiene di aver mangiato la carne di pipistrello. Carne di pipistrello. Alle Seychelles, infatti. Le Seychelles sono uno di quei posti dove si mangia la carne di pipistrello. Ragazzi, ma qual è il problema? Non ho capito. Qual è il problema? Dai, su, qual è? Fa schifo un topo, come se mangiassi un topo. Claudio topo da Milano. Claudio da Milano, vai. Mangiare un topo, mangia il topo. Claudio? Sì, dimmi, sì, ci sono. Dimmi, Claudio, dimmi. Niente, io volevo solo fare un commento su Salvini, ma è una roba molto veloce. Dimmi. Che è uno che fa salire il figlio in quanto rappresentante dello Stato su una moto della polizia. Ma questo è successo quest'estate, amico mio. Sto dicendo. È successo quest'estate. Ma dobbiamo parlare di una cosa che è successa quest'estate? Va bene, parla di quello che ti pare, ma una cosa che è successa quest'estate, che cazzo ce ne frega? Per dare credibilità al soggetto. Vabbè, ma ho capito, ma non è che più devi fare l'affresco di Salvini qua. Dai, poi vediamo. Può essere, sarà così bravo andare a recuperare dal suo elettorato, perché penso che il suo elettorato è quello che deve recuperare i 1200 miliardi che lo Stato italiano deve riscuotere. Va bene, Claudio, che cosa vuoi dire ancora? Che cosa vuoi dire ancora? Ti saluto. Va bene, Damiano da Ascoli Piceno, vai Damiano, dimmi. Cruciani, senti, domenica si terranno le libere elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Sì, per fortuna. Il di Salvini, vuole sapere. Come si è permesso, tra l'altro commettendo un reato, reato chi lo decide il reato? Violazione di domicilio. Ma lo dici tu, lo decidi tu che è reato o lo decidono i magistrati? Se è reato, è un razzista, è andato a citofonare razzista, a casa di lo puoi dire tranquillamente. E lo ha intimato di scendere, di farlo arrestare, sostituendosi alle forze dell'ordine. Chi gli dà il diritto non di mi, fare non questo? Mi risulta che lo voleva arrestare, però certamente secondo me non ha fatto bene. Ce la penso esattamente come Feltri, lasciasse da parte i citofoni. Che Salvini faccia campagna elettorale in malo modo, poi rispetto a Parenzo si sa che è un omosessuale, per essere fossato. Michele Caruso! Era lui sul serio. Che cazzo vuoi, Caruso? Caruso? Eccomi! Ma che sei impazzito? Allora, diciamo la verità, la Lega di Salvini è probabile che vinca anche questa tornata elettorale. Ma sei Caruso? Come in Umbria. Ma sei Caruso? Ma ti pare? È certo che sono Michele Caruso, ma che in cazzo persona, ne so? Cugiani, omosessuale, omosessuale, omosessuale dichiarato. È in corso a Bologna. Io sono dichiarato, al quartiere Pilastro. Ci vediamo in tribunale, Parenzo. Tu sei un omosessuale, represso e frustrato. Sì, sì, sì. Non rubi i pezzi del cesso, non rubi i pezzi del bagno. Lei però. Di copertura che ti nascondi dietro a tua moglie e i tuoi figli. Allora c'è una manifestazione di protesta al Pilastro a Bologna. Ma chi se ne frega? Citofonate Salvini. Rispondi a cosa? Rispondi a Michele Caruso. Rispondi a Michele Caruso. Ma che rispondo a una stupidaggine? Che devo dire? Parenzo, sì, sì, vabbè, c'hai ragione. Lo sì, che sì, dai il culo qua e là, è vero, è vero, chi, a chi? Ti piace effettuare per Lazio? Ma è vero, perché, è vero, Michele, perché? No? Signor ecco, Michele, questi erano i primi due idioti della giornata, i primi due, adesso gli scrivo gli altri, questi primi due spostati. Scusa, qual è la prossima? È omosessuale, represso e frustrato, Cuciani. Scusa, la prossima incursione della signora cosa, quella chi l'ha visto, quando è che la fai? Da Lasciarelli? La prossima volta non la manderò a fanculo, le darò direttamente della strega. Ma comunque state attenti che qui ci potrebbe essere un golpe se Salvini va al governo, perché se dovesse vincere il centro-sinistra, questo governo durerà fino ad almeno l'elezione del Presidente della Repubblica, ma se vincesse la destra non arriveremo neanche a Pasqua, che ci saranno le elezioni, e Salvini, se dovesse andare al potere, si tornerà quasi veramente si malcela una democratura dove ci sarà una sorta ma battene a fanculo, va Michele. Ogni giorno siamo bombardati da notizie, immagini e informazioni. Ma troppo spesso quello che è davvero importante non viene spiegato o viene addirittura nascosto. Se non vi accontentate, su 9 ci siamo noi. Peter Gomez presenta Sono le 20, l'informazione che si vede. Da lunedì a venerdì alle 20 sul canale 9 del Digitale Terrestre. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. I miei risparmi, interessi praticamente zero, meno i costi, fa più o meno, meno. I conti meno. Correnti rendono sempre meno, Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris, Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi, più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più, da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità, per i correntisti tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo, documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a €23.400 con ecobonus mini ove applicabile e €5.170 di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie mini e su mini.it. Ho capito, la pagella è un disastro, ma non è la fine del mondo. La fai semplice tu. Ma guarda che mio figlio Marco lo scorso anno con Grandi Scuole ha recuperato tutte le insufficienze e ora è in pari con gli studi. Ah, Grandi Scuole, chiamo subito. Grandi Scuole, recupero materie scolastiche in tutta Italia. Chiama all'800 22 77 00. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ricapitolando, questo è un momento favorevole per comprare casa. Chi mi spiega perché? Perché Saturno si è allineato con Marte? No, decisamente no. Altri? Perché i prezzi delle case sono in calo dal 2008 e i tassi dei mutui sono ai minimi storici di sempre. Precisamente. E se andiamo su mutuionline.it, possiamo confrontare i mutui di 37 banche e scegliere l'offerta migliore, risparmiando fino a €1.000 all'anno. E il servizio di mutui online è gratuito. Esatto, brava Beatrice. Mutuionline.it, più scelta, più risparmio. Dottor Barter, cosa consiglia oggi alle aziende che ci ascoltano? Svuotare subito il magazzino dai prodotti in eccellenza, destinandoli al cambio merce pubblicitario. Allora, dottor Barter, ci dia la soluzione. Chiamate Gruppo Next. Realizzate campagne pubblicitarie in Italia e all'estero per acquisire nuovi clienti. Gruppo Next aumenta il business promuovendo il vostro marchio con tutti i media. Chiamate Gruppo Next e consultate il sito pubblicitaincambiomerce.it. La Zanzara. Le nostre preghiere hanno fatto arrivare Fontana e Salvini, questa è la grazia, le preghiere. Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano. Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza! A Uma Uma Thurman, la donna forte che un po' ti turba. Tuo figlio in rete da quando è in culla come Truman. Vedo un obeso anche lui YouTube. E più si abbuffa, più gente esulta. L'era della musica sembra no quel serena. Soffrire. Cazzo di gara infinita, chi se la mena. L'ignoranza sventolata come bandiera. Il sonno della ragione vota Lega. Pronto? Buonasera. Salve Salvini, se lo contesti già sono usciti. Manda vaccino ai vaccini, terapia artisti, privi di senso, siccome i testi nell'indi. Buongiorno. Bimbi, sai che su streaming non trovo Lucio Battisti. Ci può far entrare cortesemente, Sì. Noi facciamo come a Cincinnati, su via, siamo adulti non vaccinati. Il senso nascosto così bene che non c'è. Non avrai altro brand al di fuori di me. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Ce l'hanno detto dei cittadini. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sì. Sono sul fondo e scavo, aspettando una mano, siamo morti. Amico mio, ti senti presa all'amo? Sì. Mi sento anch'io così. Amico mio, siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano. Io sono leghista, leghista dalla prima ora. Croce Lenzo, eccoci. Non mi drogo, non tradisco e non sputtano i miei soldi investiti. L'unico modo in cui sfogo il mio dark side è ascoltando la Zanzara. Madonna. The Dark Side, caro Parenzo, The Dark Side. Comunque certo. Capisco che la trasmissione per te potrebbe finire, poteva già finire nel momento in cui Vittorio Feltri ha ammesso che nella redazione del Libero si fottono anche le tavolette dei cessi, i pezzi dei cessi. È una, però, sì, è una dichiarazione che ti rallegra, diciamo la verità. Ti fa... No, ma mi rallegra, ma poi mi dispiace per i colleghi, ma ti dice tutto della situazione. Cioè, non ho, è solo quelle, si chiamano fotonotizie, diresti. Cioè, non c'è bisogno della didascalia sotto, perché ti dice, cioè, già. Che ribalta tutta la retorica. Conferma, no? Conferma anche tutto un. Un'idea conferma. Che io mi sono spesso fatto di quel simpatico giornale e mi conferma tante cose. Cioè, è una, come si chiama, fotonotizia, cioè la fotonotizia cos'è? Un'immagine che ti dice tutto, basta. Allora, però voglio farti ascoltare una cosa che, su cui sicuramente ti incazzerai. Un signore ha subito una cosa tremenda. Praticamente la madre, una Lidia Beccaria Rolfi, era stata imprigionata in Germania durante la guerra come prigioniera politica. Mondovì. Il figlio hanno fatto una scritta sulla porta. Qui c'è un ebreo, scritto addirittura in tedesco con una svastica. Sì, sì, sì. No, con il simbolo, scusa, con il simbolo della stella di David. Agghiacciante. Ed è una cosa ovviamente agghiacciante. Però il figlio attribuisce la responsabilità indiretta a Salvini. Senti, è abbastanza chiaro. Ragazzi, questo ora, francamente. E tutti dovrebbero essere talmente grave che non. Ma no, ma che. Secondo me non c'è bisogno di aggiungere altro. Cioè... No, ma ho capito, certo che è grave, ma possiamo giudicare uno che dice il figlio. Sì, segnare i portoni. Anche Fratelli d'Italia fece un censimento con una telecamerina. Però, ragazzi, ma non potete censire. Sì, però, censire David, ma tu non puoi avvicinare cose tremende accadute durante a me sembra la seconda guerra. Qualcuno... Ma certo che è agghiacciante. Ma non puoi avvicinare. Parlando del 2020, non c'entra. Ma non la puoi guerra avvicinare mondiale. Due cose ma che sono due cose completamente del 2020. 20. Stiamo parlando, non si avvicina alla Shoah. Dai, non c'entra. Ma ho capito. Stiamo parlando di un signore, una signora, non so chi, che è andato sotto casa o è andata sotto casa e ha fatto quello che ha fatto. No, ha scritto, del 2020. Qui c'è un ebreo con la serie. Non stiamo parlando, certo, di 30 ma è una cosa anni orrenda, fa. Stiamo parlando di schedare le persone. Questa cosa avviene anche in altri ambienti. Singolo episodio, sì, di schedare le persone. Sempre singolo. Beh, in questo caso, schedare le persone non è che avviene ogni giorno. Schedarle, identificarle così. con sì, ma che avviene c'entra spesso con Salvini, la cronaca, le cronache ma ci che raccontano. C'entra col citofono di Salvini? Ora andare a riprendere con la telecamera come hanno fatto i deputati di Fratelli d'Italia dove abitano degli immigrati, ti ricordi quell'episodio? Sì, come non lo hai certo, dimenticato assolutamente, poco assolutamente. Male te lo ricordo io con la telecamera. Ma perché mi devi dire l'ho dimenticato? Andare a citofonare è un modo di schedare le persone. Ma non puoi dire a scrivere qui c'è un ebreo con la stella di Davide, dai, con la scritta in tedesco, dai. Non ma puoi quando dire l'hanno che fatto uguale, questo? Dai. Quando l'hanno fatto questo? Ma l'hanno fatto ieri notte, non e lo so. Allora quando l'hanno fatto. Sono episodi che accadono nel 2020. Comunque, sentiamo questo signore. Sono episodi che accadono. Non hai detto vent'anni fa, oggi dai, è accaduto, su, ieri. Dai. Come si fa a non pensare al citofono di Salvini? Assolutamente sì. Però tutto questo rientra in un insieme di clima, esatto, di clima. Accostare il citofono di Salvini, quello che va a fare un'intemerata, criticata, eccetera, discussa, ne parliamo da due giorni, con uno che segna la porta di una famiglia che peraltro non sono manco ebrei, con una scritta, eccetera, mi pare una differenza abissale. Però se il tuo antisalvinismo, ma che vuol dire? Tante io non cose avvengono. Antisalvinismo. Ma tutte, tante cose avvengono fatto, nello stesso c'entra, periodo. Non è avvenuto dai. 50 anni fa. Ma che c'entra? Ma nel tante 2020 cose. E tu continui a dire, vabbè, sì, uno che scrive, poco ma no, male. Ma che uno... è gravissimo, ho detto poco male, ma se tu mi attribuisci le cose che non dico. Grave riprendere con la telecamera ma come hanno fatto tutte quelli cose dei fratelli messe sullo stesso d'Italia. Piano, no? E infatti ma sono dai. Diverse, ma hanno un denominatore comune. Ma quale scusami, denominatore comune? Per te dai. Non è grave andare a riprendere le case dove abitano legittimamente degli ma immigrati? Ma un'operazione contro l'assegnazione delle case okay. popolari, di principio. E quindi è legittimo fatta farlo. Male, fatta e quindi male, è giusto farlo. Fatta male, ma non è. Vedi una... come fai mille distinguo? Ma no, ma ho capito, ma qui hanno scritto davanti a una porta, sì. qui abita un ebreo, non sarà e mica la stessa cosa. E che differenza c'è con l'andare là sotto una casa di uno e dire qui abita un immigrato? No, che differenza c'è? No, è una cazzata, è completamente diverso. Ma io capisco che devi difenderlo. Non sto difendendo va bene, niente. Sei anche bravo nella difesa. Non sto difendendo nulla. Ma ragiona con la tua testa senza prendere parte. Allora a me non c'entra l'antisalvinismo. Ti ho detto Fratelli d'Italia. Michele quei due deputati di Fratelli d'Italia che hanno ripreso... Non li puoi paragonare a gente che va a scrivere sotto la casa di una famiglia. Ma infatti non è manco ebrea, che non è manco ebrea, che qui abita un ebreo. Michele dalla provincia di Potenza. Non è la stessa cosa. Come fai a non capire che se uno va a riprendere dove abitano gli immigrati legittimamente ma non puoi dire una cosa devi difendere l'indifendibile ma non sto difendendo indifendibile sto dicendo che non sono due cose la maggioranza uguali, no. difendili beh no avete io non so non appartengo avete a nessuno la vostra Michele. Parte politica il tuo Michele provincia di Potenza non lo so ok incredibile questa è l'unica trasmissione dove i conduttori si sputtano la vicenda Michele provincia di Potenza non riconoscere che è uguale dimmi due cose velocissime a mio avviso il gesto di Salvini si può configurare la diffamazione. Se io fossi un avvocato mi presenterei da quel tunisino e gli direi facciamo metà per uno e gli scippiamo un po' di soldi. Ma guarda che il tunisino l'ha già fatto, pare che lo voglia fare. Cioè, tunisino ha già detto che lo vuole portare in tribunale. Ha fatto ma bene. Quello invece, ha tutto il diritto di portarlo in tribunale, certo. Può fare il cazzo che gli pare. Ma l'altra cosa più importante, io chiederei a Salvini... Quando hai abbracciato il capo ultras del Milan, pluripregiudicato, grandissimo giusta spacciatore, critica, giusta gliel'hai chiesto, ma tu spacci. Sì, però posso segnalarti una cosa, scusa Michele, sì. A parte che non so se Salvini sapesse chi era quello o no, mettiamo anche... Cioè, avanza per il resto. Beh, capito, lo sai tu, che lo dici tu che lo sapeva. Secondo lui dice che non lo sapeva. Comunque ha sbagliato. L'abbiamo condannato fortemente qui per essere andato dagli ultra del Milan. Non c'è dubbio, guarda, puoi ritrovare la trasmissione e sentirai le mie parole. Il punto è un altro. In tutto questo casino che è successo nel quartiere di Bologna, lo sai l'unica persona veramente materialmente danneggiata chi è? Alla fine di tutta questa vicenda, per adesso. Poi magari questi qua verranno cacciati a pedate nel culo, verranno additati nel quartiere, verranno picchiati questi signori tunisini che abitano in quella casa volare. Alla fine di questa kermesse, che secondo me finirà nel nulla più assoluto, lo sai l'unica persona veramente danneggiata alla fine chi è? La signora Biagini, là che abbiamo intervistato anche noi, la quale ha avuto la macchina distrutta, la macchina del marito, la macchina del compagno. Alla fine di tutto questo, i simpatici signori democratici magari, o che si dichiarano democratici, contro la signora che invece... Non sappiamo chi ha compiuto questo gesto non sappiamo, però l'unico danneggiamento subito, materiale, concreto... Ci sono più persone materiale, concreto. La signora e quella famiglia. La famiglia è non lo che sappiamo. La famiglia Salvini. Non lo sappiamo. La signora beh, sicuramente. No? Beh, non è che gli hanno distrutto la casa. L'unico danneggiamento no, ma materiale. Abitati in tutta Italia sì, come persone che hanno fatto quella materialmente danneggiata. Esiste da il materiale ed esiste anche quello adesso. Che può essere l'immateriale, che è il fatto Alessandro che conoscono Venezia. In tutta Italia che lì c'è una famiglia tunisina che spaccia, che poi non è Alessandro vero. Alessandro da Venezia. Vedi tu? Sì. Ciao, ascolta Cruciani, adesso vogliamo fare una battuta. Salvini che citofona, ma tu non hai mai citofonato e scappavi? Almeno lui ci ha messo la faccia. Hai capito? Vabbè, che cazzo c'è? Io lo facevo da ragazzino, no, amico mio. Forse lo faccio da ragazzino. Tutti noi lo facciamo da ragazzini. Ma non certo. È un ragazzino anche Salvini, non è un ragazzino. Sì, da ragazzino, sì. Però ci rimproveravano a casa se ci beccavano. Cioè, avevamo una mamma e un papà che magari ci dicevano: guarda che questo non si fa. Ecco lì, mamma, manca la mamma e il papà. Esatto, ascoltami. Ma ieri ho sentito un sacco di leghisti in questi giorni, persone che non si espongono pubblicamente. Tutti che citofono dappertutto. No, in privato mi dicono è una cazzata. Cioè, è una cazzata. Cioè, poi dopodiché era spontanea, non era preparata sicuramente. Che ne dica lui, perché oggi Sabina ha detto altre cose. Però ma ti posso dire, ancora peggio sono i giornalisti. In genere non si collega, come si dice, cane o non mangia cane, ma no, la cosa non mi interessa. Dirò una cosa sgradevole. Peggio ancora sono i giornalisti che erano là, no, perché no, a risentire no. La cosa, ma quello no, ma quelli erano lì, ma ecco, che devono fare i guardiani della democrazia? No, ma digli, scusi, i guardiani dopo del quello. Comportamento no, della, ma io capisco che per ma te è tutto uguale, è cinema, per te è tutto cinema, spettacolo, certo. Chi è lì? Io gli avrei, ma è una roba da Nunziana, gli avrei detto scusi, ma lei sa che cosa sta facendo? Ma che sta, no, il cane da guardia, tu devi solo assecondare il potere, abbiamo capito, non contrastare, assecondare. Ma facevano una domanda, uno lo poteva fare, che cronici, scusi, si sta rendendo, ma arrivato, che fa? È arrivato quello che dà lezione a no, quelli ma che io seguono lo faccio, Sabini, però. Su come si devono comportare. Dai, fermo là, fermo. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Anno nuovo, Colombo. Tempo di buoni propositi, eh? Sì, buttar giù la pancia, per esempio. Ma se riuscissi a trovare una soluzione gestionale innovativa per digitalizzare il mio business... Provi Fluentis ERP. È gratis per 30 giorni. E se scegli un'installazione in cloud, i primi 12 mesi sono scontati del 50%. Ah, però, interessante, Ghirardi. Vada su fluentis.com, scarichi l'app e potrà iniziare da subito la sua Fluentis Experience. Fluentis. La F che funziona. Benvenuti nel simulatore di viaggio F24. Elaborazione dello scenario desiderato. Per fortuna il futuro è più avventuroso di come lo avevano disegnato. Range Rover Velar, oggi tua da €550 al mese con Land Rover Leasing, anche per privati. TAN 395, TAG 465, salvo approvazione della banca, info su landrover.it. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. La Zanzara. E come mai tutti dopo la gag di Salvini e il citofono hanno preso come esempio Napoli? Come mai Salvini non è andato a Napoli a citofonare un camorrista? Come mai Salvini non è andato a Napoli da uno spacciatore? E come mai? A Napoli! Oh Grugia, senti, oggi sto a un corso di disagio psichiatrico e il relatore raccontava di un suo paziente che è convinto di essere spiato da una terribile emissione radiofonica, la Zanzara. A te ti stupisce che questo qua sia andato a un corso di disagio psichiatrico? No, no, per me sono tutti elementi, come dicevo all'inizio, che confermano che chi chiama è un disturbato mentale. Beh, voglio dire, questo... Allora, Salvini dice che aveva informazioni anche da ex ministro degli interni. Senti, sì. Senti. quando lei è andata a citofonare a quella persona chiedendo se c'erano spacciatori in casa, la segnalazione l'aveva avuta da questa signora che aveva incontrato? Che la signora la conosceva, l'ha incontrata lì per caso, ha avuto altre informazioni, magari da ex ministro dell'interno aveva delle informazioni in più che le hanno consentito di andare lì a citofonare. Esatto. Aveva altre informazioni. Come dice lei, ma non è possibile. Non solo dai residenti, dai commercianti, dalle mamme, dalle nonne, dai ragazzi, ma dal quartiere, mettiamola così. Scusa, però quartiere. Adesso no, però questo è un assist che gli ha dato la Bortone. No, cioè, l'ha fatto per fargli dire la cazzata. Ma sì, oppure così, certamente. L'ha fatto per fargli dire la cazzata, infatti, scusi, è stata molto furba e brava. Gli ha detto: scusi, ma lei aveva delle informazioni per caso? E lui a distanza di 48 ore dice: sì, certo, avevo delle informazioni. Ma no, perché si è visto chiaramente che non era così. No, la scena era che quella arriva. Ma infatti lo ha sputtanato da questo punto di vista. Lo ha completamente sputtanato. Buona domanda, ottima domanda Serena Bortone. Esatto. Ottima domanda. Senti poi che dice: la droga è morte, se il ragazzo non è spacciatore avrà le mie scuse. La droga, io non sono garantista, la droga è morte. La droga rovina cuore, anima, cervello, polmoni, toglie identità, toglie futuro. Io sono stato a San Patrignano. Quindi se questo ragazzo non è uno spacciatore, però questo dovrebbe avere una denuncia, un processo come tutti, o no? Perfetto. Se non è uno spacciatore avrà tutte le mie scuse e lascio che polizia e carabinieri appurino la verità. Ah, quindi non lo sai ancora. Però in quel palazzo si spaccia, in quel palazzo, in quella via si spaccia, senti. Ho capito, se il ragazzo però non è, lei mi dice, se non è uno spacciatore avrà le mie scuse. Nel frattempo però è diventato uno spacciatore. In quel palazzo si spaccia, punto. In quel palazzo si spaccia, punto. Poi non vado io a fare gli arresti. Sono contento che l'Italia sappia che in alcune zone, purtroppo di tutta Italia, ma in quel caso, in quel palazzo, in quella via, a Bologna, in quel negozio, a Modena, in quel negozio, in quel giardinetto, davanti a quella scuola, davanti a quella stazione, si spaccia. Però oggi, ragazzi, c'è una grande notizia, una grandissima notizia. E speriamo di avere contribuito anche noi nel nostro piccolo a questa soluzione. Certamente i magistrati hanno deciso, secondo me troppo tardi, perché il PM chiedeva 3 anni. Il PM chiedeva 3 anni. Ah, vabbè, quello lì è stato condannato in primo grado, assolto in primo grado. In primo grado, sì, non ti preoccupare che sarà assolto anche in secondo grado. Con la nuova legge Salvini, per forza. Non lo so, ovvio. Se con la nuova, con la vecchia, non mi interessa. No, no, a me. Non mi interessa. No, pare di no. Il PM dice di no, ma non è questo. E allora, se il PM dice di no, è ancora non a maggior ragione. A me. Vedi che a me non mi interessa dare il merito. Ha maggior ragione le persone, ma non è vero che vengono condannate. No, ma non do il merito a nessuno. Allora, l'oste. Vede che si può già sparare. L'oste quindi. Di Lodi, Mario Cattaneo, titolare di un'osteria nell'Odigiano, lo sapete, l'abbiamo sentito più volte. Colpì un romeno nel 2017, marzo, mentre stava rubando nel locale, lo ammazzò. Calvario di 3 anni per essere giudicato innocente. Il PM chiedeva giudicato 3 anni. Innocente. No, ma io voglio innocente. Sentire anche solo una parola. Pare che sia molto però emozionato. Giudicato innocente. Vedi? Certo, assolutamente. Meno male. In base alla legge giudicato innocente. Lo voglio abbracciare, Mario. Quindi non è vero che le persone vengono condannate. Ma chi l'ha detto? Alcuni sì, altri no. Alcuni sì, quindi, altri no. Si valuta in base a quello che è accaduto. Sì, no? Troppo tempo non è passato. Prescindere. Troppo tempo. Mario. Sì. Sono Cruciani. Ti voglio abbracciare. Ciao, oh, grazie. Come stai, Mario? Sei emozionato? Sono da parte una giornata. Aspetta, che sento poco. Dove stai? Nel locale? Sì. Ti chiamo al numero fisso, se ce l'hai. Ti chiamo al numero fisso. Sì. Adesso lo chiamavo al numero fisso. Mi sembra bello pimpante. Vedi la differenza di voce? L'ho sentito per pochi secondi rispetto a quando lo chiamavamo mentre era al processo. 3 anni, amico mio, 3 anni per avere fatto sì, una sì. cosa che andava risolta in un mese. Ed il PM assolto. Aveva chiesto 3 anni, un calvario di 3 anni. La gente per questo calvario crepa, no, si ammala. Non ho capito che cosa vuoi dire, quindi non va fatto che... il processo neanche. No, voglio dire che questa cosa andava risolta subito andava risolta. Ma guarda che neanche Salvini diceva follia simile. Mario, ti abbraccio, ti voglio abbracciare, sono molto contento per te. Grazie mille, guarda, ho passato una giornata d'inferno oggi. Come mai? Mi sembrava di essere davanti al portone di esecuzione. Addirittura? Mamma mia, 2 ore di attesa della sentenza, l'arringa che ha fatto il PM sì. È stata devastante. Cioè ha fatto un'arringa chiedendo la tua condanna, chiaramente? Sì, mi ha chiesto 3 anni a me, la denuncia a moglie e figlio per falsa testimonianza. Mamma mia, cioè, e poi è arrivata una cosa, dunque tu sei rimasto sorpreso da questa sentenza? Come? Sei rimasto sorpreso da questa sentenza di assoluzione allora o no? No, beh, io mi hanno mandato proprio giù, demoralizzato questi qua. Dopo c'è stata la pausa, c'è stata la rigna della difesa, sì. E poi è ritirato il canale di consiglio, è uscito dopo 2 ore. Ma dopo la rigna di questo qua io ero proprio distrutto, perché adesso qua danno questo chiede 3 anni. Sì. La cosa viene fuori, capito? Sì, ti chiedono i danni, eccetera. Allora io ti abbraccio perché spero di avere contribuito in piccolo ad aiutarti. In alcun modo, la giustizia è stata. No, la giustizia ti ha assolto, ma noi ti abbiamo sempre. Io personalmente, come sai, ti ho sempre difeso. Volevo ringraziarti, ma non potevo mai farlo. Quindi giovedì sera sarò là da Del Debbio, forse. Per forza, ottimo, certo. Ottimo. Mario, quanti soldi fino adesso hai tirato fuori per difenderti? Perché c'è un elemento, tu sei stato 3 anni praticamente sulla graticola, sì. Quando le cose potevano essere risolte subito, perché tu hai ucciso questa persona mentre rubava nel tuo locale. Sì, mentre... ma io non l'ho ucciso, io non ho premuto il grilletto, hai capito? Io proprio... sono stato aggredito, mi hanno trascinato fuori. No, ma infatti è stata fatta giustizia, lei è stato assolto per fortuna. Quindi. Ho capito, però il PM fino a poco prima chiedeva 3 anni e lui per 3 anni è stato praticamente. Ci sono dei giudici che hanno detto che non esiste. Mario, lui si è difeso, scusami, e basta. Quanti soldi hai dovuto spendere in questi 3 anni? Magari ti hanno anche aiutato. Adesso sono 70. 70.000? Sì. 70.000 euro per difenderti? Adesso sì. Tra tutte le perizie. Mi è venuta incontro la regione Lombardia con 30.000, meno male. Per cui, per cui 70 meno 30, 40 oppure 70 anche. Cioè, No, cioè, poi ho ancora i danni che ho dovuto riparare, i danni che mi hanno fatto. Quello purtroppo è un'altra cosa. Però di difesa, tra tutto, come difesa 70.000 euro. Esatto. Cioè, ma tu ti rendi conto? Un signore, 70.000 euro, 3 anni e alla fine il PM chiede 3 anni. Ma arriverà il risarcimento dello Stato adesso? Non lo so se arriverà il risarcimento. Sì, in base alla legge dovrebbe arrivare. Senti, come ti senti Stato, oggi, certo, Mario? Come ti senti? Liberato oppure ancora hai l'incubo? Adesso, guarda, mi siedo e mi rilasso fino a domani mattina. Domani mattina ricomincio presto a lavorare e poi il tempo... Certo. No, la cosa che volevo chiederti e poi ti lascio naturalmente è questa, cioè tu pensi ancora di essere di tornare nell'incubo, vediamo se il PM farà opposizione, se la procura farà opposizione o no, guarda, oppure pensi di avere finito questo tuo incubo? Io spero tanto di avere finito, guarda, non ci voglio pensare, adesso sono 60 giorni per le motivazioni, sì. E poi vediamo. Hai pianto oggi? Hai pianto, ti abbraccio forte, Mario, ti abbraccio, grazie. Presto, avanti tutta. Arrivederci. Avanti tutta, si lavora qui a schiena dritta, ciao. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Di Porro è diventato quasi un must assoluto. Toc toc toc toc, quando si incazza con qualcuno fa toc toc toc toc. Che è come il Ritorno al Futuro, c'è nessuno? McFly? Toc toc. Ma tu dici l'ha presa da là? Sì, sicuro, quella cultura lì, come tutti noi che siamo cresciuti in quella generazione. Gianni da Padova, vai, Gianni da Padova, avanti tutta. Sì, buonasera. Sì. Tra poco cercheremo di collegarci con Vittorione Sgarbi. Vittorione Sgarbi alla vigilia delle elezioni. Alla mamma vigilia. Mia, mancava Sgarbi in Emilia Romagna, però mancava che un po' di tranquillità in Emilia mancava. Top assoluto. Pensa se facesse l'assessore alla cultura, che cosa straordinaria. Come trasformerebbe tutto, assessore alla cultura in Emilia Romagna. Sarebbe il top assoluto. Gianni, dimmi. Un brevissimo commento su quello che avete detto su Salvini, l'episodio del citofono e della signora che è l'unica ad aver subito dei danni. Allora, sicuramente. No, io non ho detto questo. Ho detto in questo momento l'unico danno materiale è stato la macchina della signora distrutta. Su questo non c'è dubbio. Questi signori tunisini, amici tunisini, dicono, non solo signori, se no Parenzo dice che li piglio per il culo. Questi signori, amici tunisini, che ripeto, per me sono dei cittadini liberi che hanno avuto dei precedenti. Pare anche il padre abbia avuto dei precedenti oggi. Che magari non è che meritano di finire sulle pagine nazionali dei giornali. Quindi anche loro hanno avuto a loro modo un danno. Adesso questo vedremo se hanno avuto un danno o no, no, o un addirittura danno un vantaggio, o addirittura allora, un vantaggio, ecco la tesi, la tesi del giornalismo di destra, un vantaggio di destra, non lo sai come va a finire la storia. Quindi vengono sicuramente a dire che vantaggio sarebbe ora. Sono difesi da un avvocato molto importante di quella zona lì che si chiama Chetti La Torre, che difende tutte le persone, che le persone vengano, ma dovresti augurarti che le persone che vengano prese di mira vengano difese. Ma sono stato il primo a dirti che Salvini ha fatto una cazzata. Quindi non è che hanno che vantaggio hanno avuto? Non lo so, vediamo se hanno avuto vantaggio. Vuoi dire un vantaggio? Dici sì, ti hanno citofonato sotto casa, hai avuto un vantaggio. No, vediamo. Ma qual è il vantaggio? I riflettori sono su quella roba lì. E qui qual è il vantaggio? Non è che a tutti piace stare sotto i riflettori. Ecco, vedremo. Vantaggio. Sicuramente fino adesso c'è la macchina sfasciata della signora. Ma secondo me, ma neanche la verità sostiene una roba simile. Allora, quello della macchina vantaggio dei. Dimmi. È sicuramente un gesto da condannare, sicuramente. Però non è altro che il risultato della politica di odio di Salvini, perché l'odio porta altro odio. Non dobbiamo meravigliarci. Ma che cosa? Non ho capito a cosa ti riferisci. L'odio porta altro odio, non ho capito. Ma sì, perché Salvini ha aizzato chiunque sia stato ad avere questi comportamenti verso la macchina della signora. Non è altro non che capito, odio che genera altro odio. Tu stai dicendo qualcuno ha sfasciato la macchina della signora, la colpa è di Salvini. La colpa di Salvini è che uno è andato là a sfasciare la macchina della signora che ha portato Salvini in quella casa. Ma guarda che questo è paradossale. Cioè, non è colpa di Salvini, ma ho capito il tuo ragionamento. Ma ho capito, tu dici politica di odio e dunque odio porta odio e tu queste cose qua. Ovviamente c'è chi dice che non è politica di odio, è politica punto e basta. Guarda che la demagogia la fanno tutti. Ma ragazzi, ma Berlusconi è stato demonizzato per anni e adesso gli stessi che demonizzano Berlusconi dicono che sono i primi a demonizzare Salvini, alla stessa cosa. Ma infatti Berlusconi è stato uno dei primi a inaugurare una stagione. Ciao, e questo Gianni, sicuro. Ciao. Vittorio? Eccolo! Come andiamo? Il nostro candidato all'attacco! All'attacco! Nostro no. Il voto disgiunto. Cioè, ma che voto per me nelle liste Forza Italia . E voto la collotta di potere al popolo, perché è una bellissima ragazza, espressiva, tutti i voti che vanno a una figura vera di sinistra e non a Bonaccini, come dice lei, candidato di destra. Cioè, ma non ho capito, tu voti la collotta perché è un gran pezzo di gnocca, questa è la realtà. Molto. È bella, è molto ragazza, molto elegante, suona clavicembalo, una suonatrice. Cioè, perché tu voti per te stesso e però come presidente potere al popolo, ma è straordinario. Tutto la questo. Collotta. Tutto questo è straordinario. Senti, io ho un'idea in testa, caro Vittorio. Dimmi. Cioè, l'idea in testa è questa: tu diventi, vince la Borgonzoni, non lo so, vediamo. Sì, mettiamo che vinca la signora Borgonzoni. Non so che tu che idea abbia della Borgonzoni come donna, come femmina. Una bella ragazza. Che voto dai come femmina? Sono molto amico del padre, come femmina 9. 9. Padre ottimo, l'ho visto ieri. Anche lui si congratula con la figlia. In realtà si vogliono bene. Allora, 9 comunque. Il voto è come femmina, no. Il voto è 9. Il voto alto per te. Voto sì. Vabbè, tu sei di bocca buona, bisogna dire, diciamo. Non vabbè, è che... Anche tu, però. Assolutamente. Come è noto, sì. Tu, diciamo, anche da un piccolo particolare, no? Voi da un piccolo particolare. Sui grandi numeri. Però, allora, l'assessore. Siamo te per le operazioni di fino. Io sono più una boutique, voi siete più un'azienda fordista. Un supermercato, grazie. Sì, voi siete un supermercato fordismo. Io sono più per la boutique, per il. Sì. Voi siete fast food, io sono più slow. Sì, ma siamo come quei villaggi, come si chiamano quelli dove si trova tutto. Sì, gli outlet. Sì, gli outlet. Noi invece che outing facciamo outlet. Della figa, però. Facciamo l'outlet. È vero che c'è la qualità, sì. Ma nella quantità c'è la qualità. Sì, esatto. Perché quante più ce ne sono, più altrettante sono invece che tre. Vabbè. Io sono assolutamente della scuola. Io sono della scuola sgarbiana, assolutamente. Però c'è un aspetto. Per esempio, Berlusconi ha fatto una battuta straordinaria. Molti dicono sessismo. L'altro giorno, in 26 anni, ha detto alla Santelli e non me la sono mai fatta. Questo ha detto. Sì, ma l'ha fatto per far credere che se la sarebbe fatta. È molto più fine. Lui, la Santelli, avrebbe preferito non vederla mai. Avendo la vada avanti, le ha fatto la battuta lusinghiera, non me l'hai mai data, ma voleva dire grazie. Grazie. Perché non ho capito come grazie? Perché? Ma perché? Perché secondo te è brutta, non ho capito. Beh, insomma, voglio dire, io la conosco da tanto tempo, ci vuole soltanto uno con lunga astinenza come, come Parenzo per stare con... No, ma io non ho, adesso non so quali i dati... Noi abbiamo... Possiamo no, perfino tu, perfino tu che sei dell'outlet, non te la saresti fatta la signora Santelli? No, no, io non parlerei così delle donne, insomma. Io ho ritenuto che lei dovesse mantenere la sua... castità e la sua coerenza familiare. Berlusconi l'ha fatto come atto di estrema cortesia. Scusami, allora tu assessore alla cultura in Emilia Romagna, mettiamo che questa cosa si realizzi, no? La prima cosa che io farei come assessore alla cultura in Emilia Romagna è proporre la legalizzazione solo in Emilia Romagna delle case chiuse. No, cioè vogliamo fare una cultura, no, sarebbe prima ancora da fare la riapertura e l'apertura dei casini, non dei casini ma dei casinò, cioè dei luoghi dove Salso Maggiore diventa casinò, è una bomba atomica. Vogliamo fare qualcosa sulla prostituzione o no? Prostituzione, case chiuse. Case chiuse, benissimo. Ecco, bello di detto. Ma l'assessore prima alla cultura, secondo me Vittorio potrebbe fare il vice della Borgonzoni, cioè la classica posizione dell'uomo che deve stare dietro la donna, come dice il contrario di quello che ha detto Amadeus. Faresti il vice della Borgonzoni tu? Io farei qualche passo indietro, perché lei ha bisogno di essere vista, possiamo dire che ormai è fatto, e prendo come consulenti Parenzo e Cruciani. Beh, molto bene, molto bene, molto bene, io lo farei come immediatamente, consulente sulla uno prostituzione. Uno per le case chiuse e uno per le case aperte. Io non voglio nessuna casa chiusa. Scusami, ma Di Maio come portaborse, lo prenderesti? Ormai potresti fare un atto di grande generosità e prendere Di Maio come portaborse. Dopo che mi sono confrontato con lui a Pomigliano, oggi credo che posso proporgli di fare il portaborse, sì. Cioè tu fai il vice della regione, l'assessore alla cultura, e poi lo prendi come portaborse, straordinario. Sì, cioè. Senti, un'altra proposta secondo me eccezionale è il Viagra per i vecchi, per gli anziani, Viagra per tutti. E anche per i giovani. Per gli over, sì, però lo vogliamo, cioè vogliamo distribuire lo passa queste, lo Stato addirittura. Cioè vogliamo distribuire queste pillole della felicità un po' a tutti. Sì, perché consentono a un uomo di essere più tranquillo, quindi lavorare meglio. Non c'è dubbio. Ma guarda che sono proposte del che settore sono... cultura. Esatto, del settore cultura, cioè dire proposta. Saranno contenti i Milano Romagnoli. Ma certo di che saranno proposte. Contenti, saranno contentissimi di avere il Viagra a gratis pagato dallo Stato. Viagra, Cialis, quello che è, giusto Vittorio? Assolutamente. No? Poi in Romagna è fondamentale che dobbiamo tenere le quote di Zanzara, non è che possiamo abbandonare il canto lasciato dal nostro capo bagnino. Noi siamo tutti bagnini e siamo tutti abituati a vendere l'ombra. Io lo vedo Cruciani quando seduce una ragazza e fa vedere l'ombra come se fosse la luce, la bellezza. Poi musei gratis mi sembra fuori di dubbio, naturalmente. Musei gratis. Quello è il museo del fascismo, che non lo vogliono più fare, ma vogliamo fare questo museo del fascismo. Dovresti fare un grande museo del fascismo in Emilia Romagna. Facciamo museo del fascismo e facciamo riaccendere il faro che tengono spento a Predappio, perché un faro o si vede, perché deve essere visto da lontano, o è inutile che ci sia. Scusami, quindi, ma i soldi per il Gay Pride ci sono oppure no? Assolutamente, Gay Pride a go-go. Gay Pride a go-go, questo è buono. Gay Pride a go-go è buonissimo. Saranno contenti soldi, gli alleati della Lega, insomma, per Gay Pride. Bellissimo, Gay Pride a go-go in tutte le regioni, pagati anche col contributo della regione. Col contributo della regione. Ciao, vabbè, ciao. Patrioti, vabbè. Ciao. Eccolo. Questo è il programma sgarbiano per l'Emilia Romagna. Amici miei, sarà una rivoluzione. Dovesse accadere, sarà un trionfo assoluto. Non so se gli Emiliano Romagnoli, non so quanto gli elettori della Lega possono apprezzare, fare. Però... purtroppo non si può fare un cazzo. Figuriamoci se si possono fare i bordelli. Praticamente c'erano dei bordelli praticamente legalizzati in Veneto con questa inchiesta assurda che hanno fatto. Si pagava col POS, ragazze libere, imprenditori che si andavano a rifornire, ragazze che liberamente davano il proprio corpo, hanno sgominato tutto. Io capisco le forze dell'ordine, per carità, io sono amico sono delle forze per dell'ordine forza. Perché purtroppo ci sono dei reati, e dunque quando ci sono dei reati sono reati, ma purtroppo dico andrebbero eliminati questi reati, tranne in casi gravi di sfruttamento della prostituzione e di schiavizzazione. Non esiste in questo caso lo sfruttamento. Se una ragazza è libera e tu la aiuti, lo sfruttamento e l'aiuto alla prostituzione non esiste, non esiste, ragazzi. Per se fortuna, io affitto, non per la legge no, mettiamo italiana. Se io affitto una casa a una prostituta, certo, se io affitto una casa alla prostituta, è assurdo, la sto aiutando a fare il suo mestiere. È sfruttamento. Non è sfruttamento, non è sfruttamento. Cioè, può essere sfruttamento per la legge, purtroppo, ma non è così. Se io affitto una casa a una prostituta sapendo che quella là è una prostituta, tu lo sai che io rischio, no? Cioè, io rischio ma meno di male. Andare. Ma no, ma certo. Che meno male, è una follia. Ma la sto aiutando altro. A fare il suo mestiere. La sto ma aiutando. Ma ci mancherebbe altro. Ma sai come sei bigotto, guarda. Fermi. A mio discapito. La zanzara. Ragazzi, non drogatevi. Ho perso la corsa della vita a causa di quella robaccia. Grazie Pedro. Grazie. Che lezione di vita. Che forza. Stop! Buona! Ora s'appiccia un cannone e Zanzara tutto fo! A belli! A belli! E mi faccio i cannesi! Fate la propaganda della droga! Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli! Io non voglio che ti fumi l'erba! Voi propagandate la droga! Zanzara e canna sto a posto, raga, sto proprio a posto. La pizza. All'attacco di questa meretrice rossa, sono asserragliati a Modena e Bologna, ma scendiamo giù dal Piacentino, da Parma dove siamo esondanti, e su dalla Romagna, da Rimini, da Forlì Cesena, e sfondiamo all'attacco a colpi di schede, si intende, Cruciani, buttiamo giù questa meretrice rossa, questa parentopoli, questa prepotentopoli, Erdogan Bonaccini, come lo chiamate in televisione, se ne vada e non torni più. Mamma mia, amico mio, ho 24 anni e ti giuro, se dovessi scegliere tra la Martani e quella cazzo di influencer Giulia lì, come cazzo si chiama, la Martani tutta la vita, la Martani tutta la vita. Mangio, mi metto a mangiare del seitan, dei broccoli, del cavolo rosso, ma mamma mia la Martani come combatte tutta la cazzo di vita. Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no? D'accordo? Allora, non sapevo, caro David, che erano in vendita su Amazon degli articoli, sai che c'è di tutto su Amazon in vendita, qualunque cosa. Erano in vendita, forse lo sono ancora, degli strumenti, cioè dei calzini, li chiamerei così, dei calzari, praticamente che servono a tenere strette, sono dei cilindri di silicone, e servono a tenere strette le zampe dei cani, dei gatti. La tortura. L'obiettivo, secondo gli animalisti, sì. Secondo gli animalisti, sì, sì, sono una specie di tortura nei confronti dei gatti. Beh, però, sì, non occorre essere non animalisti, so, qui mi pare. Vi siete abituati a tutti, ai perché invece i cappottini non sono una tortura, i cappottini dei gatti. A mandare i gatti nelle spa o i cani nelle spa non è una tortura. Ma non lo so, dai, forse sì. Allora, forse questa roba qui, è praticamente sono dei tubi di silicone che tu metti nelle zampe, stringi anche un po', ed evitano che cosa? Evitano di essere graffiato. Cioè, praticamente pensa alla follia di chi si compra un gatto, assurdo, di chi ha un gatto, no? Cioè, il gatto non vuoi che ti graffi, è appunto, come, cioè, vogliono i gatti. È come leggere Libero per sai trovare delle notizie, cioè uguale, i come Libero ridi, senza, no? Come, cioè, uguale. Ma no, è come, appunto, ripeto, come andare alla sede di Libero e pensare di poter usare il bagno, non è possibile, si portano no, via si il può, gesso, si quindi può non usare, è possibile. Ma senza tavoletta, senza tavoletta, senza come tavoletta. Uno dice, no, uno è quello, dice uno compra Libero perché pensa di leggere delle notizie, tu pensa che puzza nei cessi di Libero dove non c'è la tavoletta. Non lo so, ma la denuncia non lo dico io, la denuncia l'ha fatto il direttore, io lo farei risentire perché non l'ho detto io risentiamo, questo, risentiamo. Sembra che Parenzo ce l'ha con risentiamo, Libero, no? Sì, risentiamo. Questa è la notizia principale della giornata secondo Parenzo, sì, alla sì, sede sì, di Libero, no, che spiega, si fottono i pezzi tanto, dei cessi. Guarda che spiega molto del giornale, spiega molto. Io vorrei dire che anche nel mio giornale, che è a Milano e che è frequentato prevalentemente da gente nordica, successo un fatto straordinario, e cioè sono riusciti a rubare il sedile del cesso nei nostri bagni. Cioè, non so se la cosa vi sembra normale. Appello appello agli amici di Libero. Io suggerirei anche un altro scherzetto da fare al direttore. Verificate a che ora va in bagno a fare i suoi bisogni, perché li farà lui. Arriva lì la mattina alle 11, fa si sveglia tardi, fa la riunione, arriva lì alle 11, all'una va già via, va già a mangiare, ritorna dopo il riposino alle 4, alle 7 e mezza è già a casa. Questo è l'orario suo. L'ha detto lui, questo è l'orario. L'altra volta mi ha chiamato a casa alle 8, gliel'ho fatto notare, si è arrabbiato, cioè, ma non me frega niente al giornale. Ah, bene, sei il direttore, non te ne frega niente, te ne vai a casa, evviva, i risultati si vedono. Ma non è quello il tema. Il tema è: verificate le ore nelle quali il direttore va al bagno e togliete la carta igienica. Togliere. Così quando lui arriva non trova né la tavoletta, le sue cose e poi non c'è neanche la carta igienica. A quel punto voglio vedere che cosa fa, perché se tu gli porti via il classico scherzo che si faceva, no? Quello di togliere dai bagni la carta igienica, non è che sempre verifica. Piscia, si sgrulla il pisello nella lavandina e se no, io dico nel caso debba fare l'altra operazione. Se io ti porto via la carta igienica, come fai? Non lo so. Allora, questo è un vecchio scherzetto che funzionava sempre da ragazzi, funzionava sempre. Visto che portate via la tavoletta del bagno, portategli via anche la carta igienica. Allora ragazzi, nei giorni scorsi cosa è successo in un posto che si chiama Ascoli? Forse ne abbiamo già parlato, no? Ti ricordi? C'è un avvocato, si chiama Ascoli, avvocato. È successo di tutto. Sì, c'è un avvocato. Hanno fatto una cena. Sì, una cena ispirata al fascismo, al 28 ottobre. La marcia su Roma. Sì, sì. Poi adesso c'è questo avvocato che mi pare Avvocato Natali che in pieno centro ad Ascoli sventola una bandiera della Repubblica di Salò. Di Salò. Pare che sia un po' fascistoide. Pare che sia molto apprezzata dai piccioni della zona. Proverei a fare una telefonata, però adesso oggettivamente una bandiera della Repubblica di Salò a me non piace. Apprezzata. Non fa male a nessuno. Mi sembra che il prefetto gliel'abbia fatta togliere, però mi pare. Vorrebbe farla togliere, sentiamo. Chiamiamo, dai ragazzi. Pronto? Avvocato? Chi parla? Buonasera, Radio 24, disturbo? Sì, sono delle persone qui in studio. Le posso rubare 2 minuti? Adesso no, in questo momento no. No, ma proprio 2 minuti e poi la lascio. Cioè, no. Volevo sapere, ma allora le bandiere sono state rimosse? Cioè quei vessilli? Le bandiere sono appese oggi, stamattina, e sono rimosse perché ogni sera vengono ritirate. Ah, non è il prefetto? Io pensavo che fosse il prefetto che le ha fatte rimuovere. Ma io non so neanche di che cosa parlate, il prefetto, io non ho alcuna notizia da parte. Per cui è lei che le ha tolte e rimesse, cioè tutto normale, non è successo nulla? Io le ho ritirate come ogni sera. E poi le ha rimesse? Certo. Scusi, però i piccioni le hanno scagazzate, spero quelle. Però scusi un attimo, perché i piccioni? No, voglio capire, perché lei espone una bandiera della Repubblica di Salò? Questo non mi è chiaro. Bandiera della Repubblica di Salò è appesa da 10 anni. No, ma perché dico uno appendere? Perché mi fa piacere esporre la bandiera della Repubblica di Salò. No, ma questo si è chiaro. Si sono venduti ai nazisti. Si sono venduti ai nazisti. Se lei vuole fare polemica di questo, no, ma tipo, che polemica? Senti, è lei che mi ha chiamato. No, gente, no, aspetta, venduta ai nazisti. Aspetta, avvocato, scusi un attimo. Ma devi fare sempre così, non riesci di fronte a uno che non riconosce, questa storia che tutti possono parlare, anche chi dice ma che è? Che tipo di libertà è che uno può incitare al nazismo? Problema c'è? Cioè? No, parlo io, avvocato, parlo io. No, allora. Le telefonate a me non piacciono assolutamente. No, ma non è un dibattito storico, io voglio sapere semplicemente perché quella bandiera era esposta, essendo una bandiera... Perché esposta? Perché io da casa mia, dalla mia finestra espongo quello che voglio. Dunque, secondo lei è legittimo esporre una bandiera? No, guardi, se non è legittimo arriverà qualcuno a dirmi. No, è una domanda, secondo lei è legittimo? Evidentemente non penso di fare un reato. Non è un reato, ma lei si dichiara ancora nostalgico fascista, questo è importante. Senta, guardi, no, le sto facendo, è un'intervista alla radio, dunque. E come dire, la cosa che mi colpisce, caro David, è questa. Pare che uno sia espone... poco abituato alle domande. No, ma appunto, cioè la cosa incredibile, su questo ti do ragione, su questo ti devo dare ragione, che per me è assolutamente, non c'è nessun reato, secondo me uno è libero di fare il cazzo che vuole e non fa del male a nessuno. Dopodiché se uno gli piace esporre la bandiera, che ne non so, fa del male, della, è come, della, sarebbe come del... incitare alla mafia. Sì, l'hai è detto uguale. Più volte, io non sono d'accordo, sì, però sì, ma è così, fino se a qua tu... non sono d'accordo con te, però su una cosa sono d'accordo. Scusa, su una... viva, viva Totò Riina, mettilo fuori, mettilo sì, d'accordo, fuori però balcone, non è mettilo. La stessa cosa, dai, perché David, non è la, perché quello là è una cosa più attuale, questa cosa è una cosa di 70 anni fa. Una dai, bandiera, su. Cosa ha scritto viva la mafia? La mafia allora. Esiste ancora, il fascismo non esiste più, per cui no, c'è esistono una i fascisti. Sì, esistono i fascisti, appunto, io a quello voglio arrivare. Allora, esiste questo, perché se uno si dichiara fascista? Perché è evidente, se metti fuori la bandiera della Repubblica di Salò, per forza fascista devi essere, non è che puoi essere, come dire, no, cioè non puoi essere un'altra cosa, se esponi addirittura fuori, no, che sventolano le bandiere della Repubblica di Salò, non è che puoi essere democratico, devi essere, oppure non puoi abbracciare i valori della democrazia, ti devi dichiarare fascista. E poi non capisco perché non lo vuoi dire, perché non devi avere il coraggio. Mi pare anche che sia una persona decisa su questo, non mi pare uno, mi dicono che sia una persona piuttosto convinta di quello che è, di quello che dice, di quello che pensa. Allora lo dica apertamente, dov'è il trucco, dov'è l'inganno? Cioè una persona come lui, no, che si dichiara fascista di destra, che venga fuori a petto in su, no, ho sbaglio, David, cioè, non ti sembra che sia un po' di, ci sia un po' di codardia in questa cosa, o no? No, ma oltre che la codardia, c'è semplicemente l'opportunismo, no? Cioè quella idea che se dico quella parolina in più sanno perfettamente che altrimenti passano le vie legali e ma quindi no. Giocano, sì, lo sa perfettamente, perché se va lui Federico si mettessi Bologna, fuori dai. Dal balcone a fare i discorsi del Duce, arriverebbero due persone vestite di bianco e lo porterebbero all'ospedale. Ma no, discorsi del Duce, basta dire sì, sono fascista, punto e basta. Cioè, ma qual è il problema? Siccome un avvocato, evidentemente, conosce il confine, forse. Va bene, è Federico da Bologna, dai. Ciao, buonasera. Dimmi. Ciao. Dunque, mi dicono che chiaramente la cosa di prima delle case alle prostitute è favoreggiamento, ma è evidente, ho detto sfruttamento per certo non dire tutte le cose. Favoreggiamento, ma se io affitto una casa a una prostituta e la voglio aiutare in qualcosa che ma è illegittimo... Ma che l'aiuti? Prendi un affitto da un'attività illecita, questo è il punto. No, non è illecita, è questo il punto che ti prendi sbagli. Prendi un affitto da un'attività illecita. No, ma ti sbagli, non è illecita, perché non è illecito fare la prostituta. Beh, è illecito affittare una prostituta la casa. Questo quindi è dalla legge. Scusa, non lo però dovrebbe. Se un'attività è illecita un e io promuovo quell'attività, e perché ma se è illecita sarebbe come dire io ho semplicemente venduto una merce rubata. Anche no, lì è come no, un no, reato, è così no? Perché quella merce non è rubata. Federico, dimmi. No, ma per dire, no, non è che io non ho rubato, io ho solo venduto merce no, rubata. Non è un reato, cosa, come quella sai. Quella merce non è rubata perché fare la prostituta non è reato. Vabbè, è una cosa molto sottile. Federico, dimmi. Io volevo fare soltanto un auspicio per domenica. L'auspicio, domenica... sì, fai l'auspicio, dai, fai l'auspicio, avanti. Mi auspico che domenica possa vincere Bonaccini, perché dall'altra parte c'è il deserto dei tartari. Dall'altra parte c'è, secondo te, il deserto dei tartari, ci sono elezioni democratiche in cui tu pensi che ci sia il deserto dei tartari e invece tu tifi per Bonaccini. Ma oltre a dire, oltre a fare il tifo, che il oltre governo a... di Roma sì. accada al più presto. Sì, ma oltre a fare il tifo per Bonaccini, sì. Che cosa hai da dirci? Non ho capito. Cioè, fai il tifo per Bonaccini. Abbiamo registrato che Federico da Bologna fa il tifo per Bonaccini. Dunque... Esatto, dunque, e però basta, nel solo questo. Spero che il governo di Roma cada, quindi c'è anche che è un po' in contraddizione questa cosa, incredibile. Che è un po' in contraddizione, sia un po' bipolare da questo punto di vista. Massimiliano Salerno, vai. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. No, niente, riflettevo un po' su questa questione che stanno mondando su Salvini, perché effettivamente ha torto, no? Però insomma, condannare Salvini, ok, è giusto se va condannato, ma a sto punto Brunotti che due ergastoli dovrebbe avere praticamente. Però scusa, Brunotti è l'inviato di Striscia la Notizia, infatti lui si è comportato, addirittura ieri credo da Del Debbio, poco prima che entrassi nell'arena di Del Debbio c'era Salvini e stavo ascoltando e ha citato anche lui Brunotti. Però citando Brunotti, praticamente si è autoattribuito un ruolo da Striscia la Notizia pure lui. Assolutamente. Cioè, e questo è il punto. Cioè Brunotti va là e si fa picchiare ogni tanto, cioè lo picchiano e viene malmenato perché va nelle piazze, diciamo, chiamiamo così, nelle zone degli spacciatori. Però ecco, è una cosa non diversa. È un ex ministro dell'interno. Quello però. È un servizio giornalistico. Cioè, va benissimo, ma vedi, il punto è questo, che Salvini ha diversi ruoli in commedia. Fa da una parte il gabibbo, da una parte l'inviato, da una parte il ministro degli interni. Per me fa benissimo. Cioè, te lo dico, io non critico questa cosa qui perché secondo me è un modo di fare politica. Gli altri la fanno in maniera più istituzionale, lui la fa un po' da descamisato. Ma questo dove può arrivare sta roba? Ma dove non può lo so, arrivare? Dove può arrivare? Arriva il fa fatto che il cittadino comune si sente autorizzato, ad esempio, a farsi giustizia da sé, cioè a citofonare alle persone che commettono un reato. Quello è il tema nello specifico. Dalla provincia di Padova, dai, Massimiliano. Se tu vedi uno che fa, è un esempio. Voglio capire da Massimiliano, da Salerno, se averlo paragonato a Bruno, a Brumotti, secondo te lo in qualche modo no, ma sostanzialmente mi sembra che stanno montando una caciara, insomma, che ritengono. Ma tanto una caciara che va a vantaggio suo, cioè una caciara che va tutto a vantaggio di Salvini. Guarda, ieri si parlava solamente di Salvini, di Salvini in tutte le salse. Si è parlato da due mesi di Salvini in tutte le salse possibili. A parte che non sappiamo nulla della campagna elettorale in Emilia Romagna. Chissà perché, secondo l'unica te? Cosa chissà che perché? Conosciamo chissà è le bravate di Salvini. Fermo lì. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. La Zanzara. Buonasera. La fellazio di una donna con l'apparecchio è una delle mie libido segrete. Oh mamma mia, Crucio, che fantasie. Viva la Zanzara, sempre. Sono andato da un trans, trovato su internet come mi hai consigliato tu. Ascoltami, c'è scappata la boccata. Che faccio, sono gay? Ti capisco, amore, persone come te capisco benissimo. Voi ma non vuoi, voi ma non vuoi. Desidero ma non voglio. O lo desidero ma non voglio. Non lo so come faccio, devo prendere, però ho paura. Ah, come faccio? Quando arriva sopra, bravo. Ma tu hai idea di che cosa è accaduto in questa trasmissione in questi anni, caro David? Hai idea di che cosa è accaduto o no? Ti rendi conto di che cosa è accaduto? Il mio stato di salute materialmente. Qual è? Ma non vedi qual è? Sì, ma non ti rendi ti vedo conto emaciato, ti vedo di emaciato. Quanto sono mogio a sentire questa roba? Avere in parte, purtroppo, forse contribuito a tutto questo. Al degrado del paese, dici, no? A dar voce a questo sì, sentiamo questa tua perorazione, questo tuo proclama, questo tuo stato d'animo. Mi distrugge il fatto che qualcuno possa pensare, anche ai miei figli un domani, che ho contribuito a sdoganare un linguaggio violento, fascista, vergognoso e insultante contro le donne. Io faccio sempre di dire non è così. Non è vero. E questo, di averlo amplificato, ecco, di tutto questo mi vergogno. Non è vero. E alle volte devo anche chiedere scusa, anche per te, cosa che tu non fai mai, quando tu usi termini eccessivi, sessuali, entri nel merito di quelle porcherie, quelle cose. Mi vergogno. Allora ragazzi, io però sono in collegamento. Finito? Italiani! No, voglio. Dai, che devo andare a casa, che c'è una roba. No, sono in collegamento con una signora. Italiani! No, ma stai, ma manca la vita, manca. No, allora, chiudi, sono in collegamento con una signora transessuale che è la migliore escort trans. Ma secondo tu ormai, il sito, ma perché non fai un libro, una guida su ma questa lo sto roba facendo qua? Secondo fai una guida secondo ecco, il quello sito, devi fare ma ogni fermo sera secondo il sito Trans Advisor Escort Advisor è una signora che di solito è a Novara ma in questo momento credo si trovi a Bologna, si chiama Silvia, è una transessuale, io l'abbraccio, la incorono. Silvia, buonasera. Ciao tesoro, buonasera. Come stai? Come stai, cara? Bene, bene, grazie. Da voi? Quanti anni sei in Italia? Non c'è male, amica mia, non c'è male. Ce la capiamo? Quanti uomini hai fatto fino ad oggi? Mamma mia, incontabile, tantissimi. No, adesso, oggi, oggi. Oggi ho fatto 8 più o meno. 8? Sì. 8, solo 8 oggi, più o meno 8, sì. Non ti ricordi ancora, nemmeno ancora, ancora finisce la giornata, manca ancora la giornata. Ah beh, certo, non c'è dubbio, 8. Sì, fino a che numero sei arrivato in una sola giornata, scusami? Una volta a Foggia ho fatto 25 uomini. A Foggia, bellissima, uh-huh. Foggia, Foggia, sarebbe Foggia. A Foggia. Uh-huh. Cioè una volta tu a Foggia hai fatto 25 uomini. Sì, 25. Ma come hai fatto, scusa, come hai fatto? L'ho fatto. Come hai fatto? Ma che alla fine della giornata come stavi? Mamma mia, apertissima per tutti, per tutti l'alto. No, non ho capito. Aperta per tutti i buchi. Aperta per tutti, apertissima. Sì. Il pisello come ce l'avevi? Mamma mia, mortissimo, è stanchissimo lui, lavora tantissimo. 25 uomini nello stesso giorno a Foggia. Uh-huh. Ma a Foggia che so, dei maiali, amica mia. Cioè... Tantissimo, scopano tantissimo là, sai? A Foggia dici? Sì. Dovremmo dire al presidente del consiglio, signor Conte. Signor Conte. Beh, adesso non penso che Foggia sia conosciuta solo per però questo. Però questa signora, che è la top escort trans in Italia, per carità, in Italia sostiene che a Foggia scopano da morire. Interessante per i nessuno signori. Vuole mettere in discussione e la quando lei è andata a Foggia, signora, se ne è fatta 25 pensate. in uno stesso giorno. Allora, uh-huh. l'origine. Che? Vabbè. Uh-huh. Ma parla vabbè. In modo. Userei ogni volta che parla un nazista. Un facilista, lo userei. Dice, quello stronzo espone la bandiera, quell'altro dice viva il Duce, userei come gingolino, cara regia, quando c'è qualche imbecille che no. Allora, Silvia è di origine venezuelana, ma la cosa incredibile, e si sente che è sudamericana, è che abita a Novara ed è sposata da quanti anni? Pure sposata. Io ho un compagno di 18 anni, siamo sposati l'anno scorso, siamo sposati. Ah, dunque tu sei stata insieme da 18 anni, ma sei sposata da due anni. L'anno scorso. Da due anni. L'anno scorso, sì, più o meno 2 anni. Con un'unione civile, cioè scusa, tu sui tuoi documenti, è italiano questo signore? Sì, certo. Cioè, sui tuoi documenti, dunque, tu pur avendo l'uccello, sei femmina o no? Oppure sei... No, ancora no, devo fare il processo del cambio del nome. Per cui tu hai fatto l'unione civile, quella... certo, sì, quella unione civile. Quella di Renzi hai fatto, quella di Renzi. Bellissimo, è stupendo. Allora, le unioni civili, Renzi ha fatto sposare, la legge di Renzi ha fatto sposare questa transessuale venezuelana prostituta con un italiano. Quanti anni ha tuo marito? Tu hai 47, mi sembra. Hai sì, ancora lui ha 56. Tu lui ha 56. È uno facoltoso che ha del denaro oppure magari, no? Magari, no, tesoro. No, normale. Uno non normale. È facoltoso, sì. Altrimenti probabilmente non faresti più la puttana. Bravo, no? Senti, quando è che hai deciso di diventare questo? Quando è che hai deciso di diventare... Adesso questo qua è la corte o è lei? Allora, quando è che hai deciso di diventare transessuale tu, amica mia? Da piccola, sempre. Da piccola? Sì, da piccola. Hai ragione. E la prostituta la fai da quanti anni? 18 o 9 anni quasi. Ma ormai, amica mia, sei navigatissima ormai. L'azienda. Sei molto navigata. Tanti molto... anni che lo faccio. Che mestiere fa tuo marito? E fa il corriere. Il corriere, cioè l'autista? Sì, sì. L'autista. Ah, sì. Magari ci sta ascoltando? Magari ci sta ascoltando. Magari, sì. Le ho detto che si ascolti, l'ho detto. Che ascolti. Gli hai detto, marito, certo che sì. La prossima volta voglio parlare con tuo marito, amico mio. Ma va bene, volentieri. Ma sessualmente che fa tuo marito? Io sono attivo, io sono la passiva. Tu sei lui. Passiva, cioè ti inchiappetta e basta. Inchiappetta benissimo. E invece, al contrario, tu con i clienti, la percezione... Io a loro. Ma che percentuale è? Ma più che o meno bella quelli notizia. 50% 50% quello. Beh. Che vuole essere scopati, quello che vuole essere soltanto passiva per me. Capito qual è la situazione? Sì, sì, sì, sì, sono sì, delle percentuali carità. Un po' diverse da quelle che dice la signora Efebal. La signora Efebal dice 80% sono passivi e 20% attivi. Lei invece dice 50%. No, per me è 50-50. 50 sono tanti passivi e 50 sono tanti attivi. Ma pensate, ma pensate. Ragazzi, ma queste sono le statistiche importantissime. Ma età di persone che vengono da te, amica mia? Vengono da tutti, da quelle ragazzine da 18 anni fino a quello signore di 80, da 50. 80 pure. Il più vecchio? Anche. Il più vecchio? Ma che 85 anni, l'ho capitato. Addirittura 85 anni, che poteva fare? All'Ecco. Ah. All'Ecco, all'Ecco. Lo prendeva soltanto lui. Vabbè. Ma lo prendeva? Vabbè. Lo prendeva. Sì, ormai quelle da lì non è che 85 tanto. Anni si faceva inchiappettare 85 anni. Cioè. Prendeva la medicina, prendeva. E basta. La pillola prendeva. E basta. Prendeva la pillola per il cuore. Ma che ti ha fatto questo signore qua? Niente, nemmeno, non ti ha nemmeno toccato, sì? Certo che sì. E che ti ha fatto? Che ti ha fatto? Mi ha fatto del tutto con lui, non ho fatto. No, a lui che ti ha fatto materialmente? Un pompinino mi ha fatto. Ah, un pompino? Un pompinino, E com'era il vecchio di 85 anni? Bravissimo, sai? Era molto bravo. Mamma mia, molto bravo. Sì. Immaginate, ragazzi, la scena. Allora immaginate la scena. Silvia, 47 anni, adesso all'epoca mamma non so. Mamma mia, transessuale venezuelana, con un signore vecchio di 85 anni di Lecco, inchiappettato, e poi questo vecchio che ha fatto una fellazio a Silvia. Pare che sia stata, da quello che mi dice, anche una top fellazio, o sbaglio? Bravissimo, certo. Una delle migliori. Ma abbastanza. Quanto è lungo il tuo attrezzo, il tuo gingillo? 19. Quanto? 20. Quanto? Bello grosso. Cioè, ma quanto? Centimetri? 19, quasi 20. 19, amico mio, 19. Conclusione di questa splendida intervista tra qualche minuto. Silvia Trans, Bologna in questi giorni. Noi facciamo veramente induzione alla prostituzione. Noi facciamo favoreggiamento. No, adesso, adesso ma tu, io calma, sono contrario a questa qui. Favoreggiamento questa della prostituzione. Ma perché ti fa schifo? È la vita descrizione reale. Qui, come ma, fa, vita reale. Ma mi fa orrore. La gente non parla così, mi fa orrore. Ma come la gente non parla così? Cos'è che ti fa orrore, Silvia? Ma dovresti abbracciarla, così, è una lavoratrice. Ma no, ma una proletaria, in modo così esplicito di queste cose mi fa orrore. Ma quanto costa quanto costa la prestazione, Silvia? Parto di 80 in su, se parte. Da 80 in su. Fatta bene, piano piano. Ma sei una padrona, mistress anche? Cioè sei padronissima, sì. Hai schiavi? Hai schiavi? Tantissime ce l'ho, sì. Tanta gente, le piace queste generi qui. Che schiavi. Le fruttino, che le pestino. Capito? Che le trattano male. Ferma, fermala. Adesso la borsa. Edizione straordinaria, il primo cane atterrato su Marte. Ma no, basta fake news. Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy e la carne è sempre il primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. I miei risparmi. Interessi praticamente zero. Meno i costi, fa più o meno. Meno. I conti meno. Correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi. Più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più. Da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità per i correntisti fa sordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. Benvenuti nel simulatore di viaggio F24. Elaborazione dello scenario desiderato. Per fortuna il futuro è più avventuroso di come lo avevano disegnato. Range Rover Velar, oggi tua da €550 al mese con Land Rover Leasing, anche per privati. TAN 395, DAG 465, salva approvazione della banca, info su landrover.it. Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri. Come Smart TV LG 4K 55 pollici a €379 o in 20 rate da €18,95 fino al 2 febbraio. MediaWorld, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Al mattino il latte incontra la genuina fragranza dei biscotti Duemi. E nel pomeriggio il tè reclama. Dove sono i biscotti Duemi? Dove sono? Che buoni i biscotti Duemi. La Zanzara. Intanto Ciao ragazzi. Ciao. Come stai? Bene, amore, grazie. Ha mangiato bene? Sì, grazie. Ah, scusa, io spiegare una cosa. Sì. Tu uomo o donna? Io sono donna, tesoro. Tu sei trans? Donna di cazzo. Quando parlare fare... Non ho capito, amore, cosa ho detto? Ho detto tu sei trans. Sono donna di cazzo. Vai lontano. Non ho capito, amore. Dove vai? Non vieni vicino con me. Vai lontano. A te ti piace il cazzo? Ho detto basta! Ragazzi, io ogni volta la potrei sentire in loop 40 volte. È terribile. La posso sentire in loop 50 volte. È assolutamente terribile. Mi fa sempre godere. Siamo in collegamento con la top escort trans in Italia, Silvia da Novara, in realtà a Bologna, già oggi 8, secondo Escort Advisor, naturalmente, già 8 clienti. Ha detto che ha raggiunto il top con 25 clienti in quel di Foggia, dove evidentemente sono molto interessati a cose di questo tipo. Cara Silvia, abbiamo assistito prima ad un tentativo da parte di un signore che si rivolgeva ad una trans. Qualche volta vengono delle persone incerte, come fai a convincere? Sì, molte. E come fa? piano le faccio una toccadina, le leggo bene il culettino e poi le filo piano dentro. Cioè, piano, tu dici piano. Importante è la calma, no? Cioè, vengono da certo, te. Certo, senza premure, senza fretta. Se vengono da te, vengono da te delle persone, cara Silvia, che sono alle prime armi, cioè con la prima esperienza. Certo, tante persone. Tante persone alla prima esperienza, con la prima esperienza, e vogliono essere inchiappettati. Mamma, Davide, non capisco perché tu devi rifiutare questa cosa come possibilità nella tua dimensione, nel tuo universo sessuale. Perché vuoi escludere la possibilità? Ma no, io personalmente lo escludo nel modo più assoluto, perché la mia vita, poi quella di altri facciano quello che vogliono. Ma non lo puoi escludere definitivamente. Io insisto, mi dispiace. Quest'anno radiofonico, insisto su questa cosa, che tu una volta dica no, non lo escludo. Escludo nel modo più assoluto. Scusami, e totale. Scusami Silvia, riesci a dire qualche parola a Davide per convincerlo? Almeno ma solo io ho un altro gusto. Dai il numero telefonico, io le metto a tuo agio. Ma sì, io la rispetto molto, signora, tutto quello che fa. Lui non è molto scettico. Il mio gusto, diciamo. No, lui è molto scettico, Silvia. Come puoi fare per convincere uno? Come fai a convincere uno che è molto scettico, che non si sa immaginare in preda di un uccello? Ma questo è il punto. Non mi interessa proprio, non ci penso minimamente, anzi, cioè, penso altro, francamente. Ma cosa dici a lui? Cosa vuoi dire? È una cosa bella, piano piano si riesce a convincere, poi una volta che è dentro godi tantissimo, sai come vuole, no? Ecco, ma non accadrà, grazie, rimango col dubbio. Rimango col dubbio. Una volta, grazie, che è dentro, l'importante è che sia dentro. Sì, sì, ma intanto rimango col dubbio. Intanto rimango col dubbio. Le coppie ti cercano, le coppie? Tantissimo. Sì, solo coppie la cercano. Veramente. Ma che succede materialmente poi nel letto lì delle coppie? Ci sono certi uomini che vogliono si vedere che io scopo alla moglie, loro si spiegano. E loro che fanno nel frattempo? Si fanno la seghe. Si fanno una seghe, sì, benissimo. Ma questa è la cosa principale. Questa è la cosa principale. Invece ci sono anche donne che guardano te, che ti fai l'uomo anche? Anche, mi è capitato tante volte anche, sì, che io faccio a loro e loro guardano. Le donne. Comunque sì, crescono le coppie, mi sembra di capire, no? Crescono. Tante, in tutte le città chiedono tante, sì, servizio, cioè? Di coppie. Più nelle città? Servizio di coppie. Sì. Città grandi. Nelle città grandi sono le coppie che chiedono. Sì. Va bene, amica mia, io non so come fare per convincere Parenzo che esiste questo mondo. Non c'è un modo. Che esiste, no, questa esiste, dimensione. Lo sento. Passare il numero telefonico. Ma no, ma non si si preoccupi, rimarrà muto. Rimarrà muto, non si preoccupi. Va bene. Va bene. Arrivederci, ciao, signora. Ciao. Buon lavoro. Buonasera, grazie. Avanti a voi. Tutto. Buonasera, signora. Buonasera, come. Pietro da Benevento, vai Pietro. Cruciani, dimmi. Senti? Dimmi. Io volevo dire che siccome seguo un po' anche a Salvini. Siccome? Pare che seguo anche un po' a Salvini. Sì, tu che sei, sei italiano, sei rumeno. Sei rumeno, Pietro il rumeno, benissimo, da Benevento. Segui Salvini, allora? Che voglio dire che assomigliate un poco, in modo che Io non assomiglio a nessuno, amico mio. Di profilo, cioè di persona, nel vostro come modo di fare. Di comandare. Ma che comandare cosa? Questa è la sua percezione. Come tu comandi nella tua redazione, per esempio. Non c'è niente da comandare qui. Comunque, no, Pietro, no, dimmi. No. Fate un po' grandi, come dire, come anche Salvini, fa il grande il suo paese, però non si è mai presentato a un... Dove si deve presentare? In Europa, magari. Ma questo è cretino. Ma che vuoi dire? Ma cosa vuoi dire? Non si è mai presentato in Europa, è vero? Tutti quanti fanno dal grande, però quando c'è qualche incontro non si presenta. Ma tu non hai un cazzo da dire. No, no, è una cosa vera, non si è mai presentato ai vertici europei. Bravo, ha ragione su questo. Assessa anche tu, Cruciani. Ma io che devo, io mi devo presentare da grande. Tu fai da grande nella tua redazione, però quando vai anche fuori, qualche altra trasmissione, per esempio, ti ho visto un po' ieri sera. Cioè, eri molto moderato. Ma dove? Ma amico mio, ma la capisci la differenza? Sì, Pietro, la capisci la differenza? A parte che non ero moderato per niente, ma la capisci la differenza? No, ti ho visto un po'. Pietro, la capisci la differenza? Testa vuota, zucca vuota. La capisci? La capisci? Capisci la differenza tra essere una trans? La stessa cosa anche Salvini, che fa un po' da grande qua, ma allora, la capisci non la differenza? Non si presenta perché ovviamente quanto delle persone faccia. Pietro, stai zitto un attimo. Accento mezzo rumeno, mezzo beneventano, mezzo napoletano. Vabbè, un po' di tutto. Va bene, per carità. Allora, la capisci la differenza tra stare a casa propria, cioè stare in un posto dove comandi tu, dove puoi orchestrare tutte le cose come ti pare, ed essere ospiti in una trasmissione? La capisci oppure te lo devo spiegare? È evidente che non lo capisci. Non rompere i coglioni. Cioè, tu trasmetti un po' anche a Salvini quello. Magari che c'entra Salvini? Un po' moderato. No, Salvini, quando dice. Per esempio si va all'Euro, come si chiama, a Bruxelles? Ciao Pietro, a Bruxelles. Mi sono dimenticato di farti sentire Saviano, ragazzi. Mi sono dimenticato Saviano. Come ho fatto a dimenticarmi di Saviano? Incredibile. Sentite. Cioè, facciamo un piccolo recap sulla principale notizia di questi ultimi giorni: Salvini che va a citofonare due volte, eccetera. Che è ancora quando viene una follia, bisogna mettere. Esatto. È una prassi squadrista. Sentite Saviano con la sua prosopopea, con il suo ritmo, con il suo linguaggio, no? Tutto ricercato, con le sue pause, col suo sguardo, è una prassi squadrista. Salvini è solito avere questa prassi squadrista. A che titolo chiedere a una persona posso entrare a casa, mi fa entrare a casa? Salta tutte le procedure, va da un presunto spacciatore. Non c'è nessuna indagine. Aveva tutto il potere di inviare la polizia, di sottoporre, tra l'altro già da ministro degli interni, quel tipo di periferie a controlli maggiori. È un atto violentissimo. Vero, un'invasione, certo. Quella citofonata, ridicola, goliardica quasi, goliardica. In realtà è un atto violento, è un atto violentissimo. E Salvini ne era consapevole. È un atto violento perché istiga a poterlo fare. Se lo fa lui, ognuno di noi può citofonare. Ma come se autorizzasse al rutto libero, dare il peggio di è sé. È quello che ho detto prima, È un punto di non ritorno della nostra democrazia. Ho detto prima, esattamente quello. Citofonare è un punto di non ritorno. Squadrismo, finiscono le nostre garanzie. No, è una cialtronata, secondo me, una roba da Brumotti, fatta appunto. Da un politico. Benissimo, non è una roba da gabibata, appunto. Autorizza a farsi giustizia da soli. Ma nessuno domani a fare le ronde, ma nessuno domani fa queste cose qui. A fare le ronde bravata, si facevano anche durante i governi di centrosinistra. Si facevano bravate anche che possono finire male. Si facevano anche quando bravate lui... che possono finire male. Questo comincia a non ascoltare più, lo sai? Cominci a non ascoltare più, andare per la bravate tua strada. Bravate che possono finire male. Quando poi cominceranno ad incendiare qualche portone, diranno: no, ma lì c'erano degli extracomunitari, lì c'erano degli immigrati. Capisco, quando inizieranno a farlo, poi lì dopo tu dirai: no, prima era solo il citofono, ma hanno soltanto incendiato un portone. E una volta che hanno incendiato il portone, dice: ma è un oggetto, è una cosa, non si è fatto male a nessuno. A quel punto sarai costretto a dire: ma no, ma è poco male. Questa cosa che dici tu. Poi è ci molto, sarà un'altra è molto cosa. Scenografica quello che no, dici no, tu. No, no, poi ci sarà un'altra cosa. È una citazione di Bertolt Brecht. Poi c'è un'altra cosa. Molto, ce lo so. No, è ma molto è esattamente così, però. Il citofono è una goliardata. Negli anni 30. Il piccolo petardo. No, il citofono è oggi, non è degli anni 30. Sì, il citofono è 2020, eh? Vai, vai. Quella citofonata è un punto di non ritorno per la nostra democrazia. Infatti siamo su tutti quella citofonata si faranno molti ragionamenti, molte analisi. No. Partiranno da quel momento. No. Il momento in cui la democrazia italiana inizia a perdere le sue garanzie e tutto è un infinito e squallido teatro di propaganda. Fermi tutti, abbiamo perso le nostre garanzie. Abbiamo perso tutte c'è le garanzie. C'è il rischio che dice, c'è punto il rischio di non ritorno, che... fermi tutti, da c'è domani siamo in pericolo. No, ma non va a trasformare tutto in una buffonata, perché non è tutta una buffonata. Hai detto la stessa cosa. Alberto, io dico che ha ragione, Padova. Ha perfettamente ragione. E appunto, hai detto la stessa cosa. Ma non trasformare tutto in una buffonata. Il tema c'è. Anche tu hai detto che ha fatto una cosa certo, fuori. Una cialtronata. No, non è solo una cialtronata, è molto Alberto, di più. Provincia di Padova. Per me è solo una cialtronata. Ma infatti, anche quelli che hanno scritto sul portone qui ci sono degli ebrei. Ma dicevano così. Ma guarda che dicevano diverso, così. Quello è diverso. Ah, Alberto, quello è diverso. Certo, quello è diverso. Quello c'è un odio nei confronti dell'ebraismo. Qui non c'è un odio invece. No, lì c'è una bravata. Nei confronti di un immigrato. Provincia di Padova. Una bravata. Dicevano così. Si diceva così anche negli anni passati. Allora, c'erano persone di che dicevano così. Alberto, no, ma ormai ti è entrato talmente dentro questo scriminare i comportamenti. Basta, e no, no, dire goliardata è, di, ma sì, è dire una, ha giocato. Ma non dico che ha giocato. Vabbè, Alberto, provincia allora di anche Padova. Uno che scrive sotto una casa è uno che gioca. Ma no, dipende perché il motivo per cui l'ha fatto. Solo che lì c'è odio. Pare e riprendere che ci i citofoni odio di chi abita legittimamente in una casa. Provincia di Padova, lì è un errore. Quindi c'è goliardata e errore. Ma certo, Alberto, provincia di Padova. Goliardata e errore. Non la metto sul piano del cataclismo universale. Se è proprio così, sarò padrone o no? Alberto, provincia di Padova. Errore. Queste sono Alberto, le due cose. Provincia di Padova, dai. Va, forte. Non è che uno per forza la deve mettere sul piano episodi del cataclismo universale. Diffusi che fanno sì goliardata Stanislao, e piccolo errore. Stanislao Roma. No, piccolo l'ha detto tu. Stanislao, dimmi. Pronto? Dimmi Stanislao, dimmi. Salve Cruciani. Dimmi. Senti, per farti capire da che pulpito arriva la predica che verrà. Io sono uno che mi sono allergico al politicamente corretto della sinistra, sì, sono sì allergico anche sì a questo femminismo che sta diventando imbarazzante, sono pure i bordelli per mettere i casino. Tutto questo però non mi porta a giustificare un gesto come quello di ma perché io l'ho giustificato? Ma perché io l'ho giustificato? Perché scusa, è grave, perché... ma, allora, l'ho giusti... ma scusa, devo dire per forza che è una roba criminale? Devo dire per forza che è una roba criminale? No, non è un la criminalità gioco la giudica, sì, ma, no, ci sono i magistrati. Devo dire che è criminale, ma è io un non atto ho giustificato politico grave. Ma non ho giustificato nulla. Molto ho detto grave che è un errore, una cazzata. Non si va a citofonare la casa della gente. Ma è una cazzata, è qualcosa cazzata. Ma tu immagina, scusami, ma immagina, facciamo il contrario, immagina che io vado a una riunione della Lega, gli faccio, senta, lei che mestiere fa, lei fa l'idraulico, guarda, mi hanno detto che non rilascia la fattura, quindi lei è un evasore con le telecamere, poi vado a suonare ai cittadini degli inquisiti della Lega per corruzione e gli faccio, scusi, lei è un ladro e un corruttore con le telecamere, portando il nome. Che avrebbe detto Salvini se avessi fatto una cosa del genere? No, ma sicuramente Stanislao, io non ho detto nulla, cioè non hai capito ancora, io ho detto che è una cazzata, punto e basta, ho detto che non mi piace ma, questa roba qua, andare a citofonare. A me invece ricorda, ma, a me invece ricorda, a me mi ricorda cosa? Il medievo dove qualcuno si svegliava la mattina, ma diceva guarda, io ho visto quella signora che traffica col gatto è nero, un secondo atto, me è un atto, è un visto, bravo, il medievo, esatto, bravo. Il popolo che ha il nome della rosa, bravo, esatto. Fermi esatto, tutti, esatto, ragazzi! Italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto!